son vanto, tutto il mondo in mano, e sempre allegra canto, sì, mi mando venerdì lo so, e se la verità dirò, nessuno certamente crederà. Sì, mi mando un venerdì però, di tutti me ne infischierò, e mille stramberie combinerò. Per questo girando gioconda, ridendo nel mondo, io vivo giocando e cantando, felice sognando, ma sì, mi manco venerdì lo so, però nessuno mai dirò, che solo se felici notte di, quando manca un venerdì. Vivo giocando e cantando, felice sognando, ma sì, mi manca un venerdì lo so, però nessuno mai dirò, che solo se felici notte di,